non ve l'ha cavata. Funziona. Non ve la cavate mica tanto col mercato, perché dovete subito sorbirvi la storia di un preambolo. Quando ho pensato di raccogliere queste mie poesie, sistemandole in 6 quadri strutturati come categorie, mi era parso sintetico il titolo Percorsi. In realtà, rileggendoli, mi sono reso conto che sono tremendamente autobiografici, autoreferenti, discontinui e frammentati. Forse avrei potuto chiamarli Confessioni di un ottuagenario, ma è presuntuoso ricalcare orme famose. Comunque la si rigiri, è sempre lo spirito di un anziano che pervade questi versi. Allora ho cercato di capire il senso della vecchiaia. Ho trovato un libretto, L'elogio della vecchiaia, niente po' di meno che di Francesco Petrarca, edito dalla piccola biblioteca della felicità, guarda un po'. Il Petrarca si rifà alle senectute di Cicerone, che immaginava un dialogo tra due personaggi, il dolore e la ragione. Il dolore parla di tutte le lamentele fisiche e soprattutto psichiche e pone un sacco di domande. La ragione è la riflessione logica, meditata, spesso soppesata tra i pro e i contro. Ora qui io vi presento la ragione, che è la professoressa Ripamonti, e il dolore, che è il signor Zindaco. Sono diventato vecchio. Sei potuto fare ciò che ti piaceva? Sii soddisfatto. Se hai dovuto faticare per gli impegni, sei contento di averli portati a termine. La parte migliore degli anni è ormai dietro di me. Ma chi lo dice? Giovenale sostiene che sono pochi coloro che riescono a discernere i veri beni. L'età migliore è nel passato. Ogni età è buona per chi è buono, cattiva per chi ne fa cattivo uso. Sono invecchiato e il mio corpo si è incurvato. Volgi il tuo sguardo a terra e pensa da dove vieni e dove ti appresti ad andare. Di qui sei nato, qui tornerai. La terra è dunque madre, vedi Giobbe. Il viaggio è stato difficile, ci avviciniamo al porto. È tempo di tirare a secco la nave, ormai affaticata, e meditare. Meditare dunque perché vecchiaia è soprattutto maturità. Questa raccolta è all'insegna della ricerca di rendere visibile l'invisibile e nella risorsa di poter far sogni, questi miei percorsi possono essere comuni a molte persone, in particolare io spero a quelle che mi leggono e mi ascoltano. Comunque lasciate che vi dica che mi sento un po' un funambolo. Quando tra le griglie severe della prudenza e della difesa riemerge alta la voce dell'amore, si squarcia il cielo per me ed ebbra vaga l'anima mia danzando funambola sulle corde del mio cuore. Il tempo con la sua ambiguità nella nostra lingua, il tedesco distingue, lo sapete, dice Peter e sai, ma noi, per noi il tempo è tutto. Dov'è cronologia ma anche meteorologia, è uno dei parametri inesorabili della vita e si presta facilmente alla metafora. Che mai sei tu, che innanzi a noi corri senza meta, almeno a noi nota, come un bimbo che ricorre farfalle e insegue svolazzanti uccellini, sfuggendo all'uomo che arranca cui percorrere ormai forza manca. Troppo lesto sei e anche incalzante. Per sé non hai colore, ci appari un poco grigio, ti accendi sul furtivo negli attimi di gioia. Ti han detto galantuomo, non so se sia poi vero, tu cambi ogni stagione. Millesimal frazione per noi tu resti di questo attardato mondo umano, nel correre incessante ed infinito, per secoli e secoli lontano. Sei misura d'ogni gioia e d'ogni pena. Speriamo che tu sia breve, alla fine, quando dovremmo uscire dalla scena. Il tempo della fine. Il tempo scandisce i momenti della vita, soprattutto dell'anziano, che ci torna sopra, lo rimugina, lo rimpiange e spasima nell'attesa e nel desiderio di quello che gli resta. Il tempo della fine non è la fine del tempo. Com'è che il vivere degli anziani rallenti? Crepitan l'ossa al di sotto dei muscoli duri e legnosi, e le menti non trovano sempre le giuste parole. Per il vecchio oppresso dal fardello degli anni, sembra tutto in salita, mentre scende la vita. È il peso di un lungo passato che ci frena nel nostro cammino. Il presente è testé consumato, il futuro è già al lumicino. Con la testa che è piena di ricordi ed eventi, non ti punge vaghezza di guardare più avanti. Ma perché? Forse è poco, forse niente. Questa meta ignota incute paura quanto più si avvicina. Ma poi basta il sorriso di un bimbo di risposta alla sua dolce mamma a ravvivare il calore della fiamma dell'umana speranza di bene. Primavera. Le stagioni sono frazioni del tempo. Lo è anche la primavera. Lasciate che un ariete come il sottoscritto ne esalti le virtù, la vivacità, la dinamicità, l'incertezza, l'influenza che ha sulla natura in generale, sulle vicende e sugli umori dell'uomo. Per i cinesi la primavera è il verde, è l'inizio di ogni essere vivente, dell'acqua da cui tutto nasce. Primavera. Che ci porti primavera? Frementi e frizzanti in cristalli di luce, le gocce abbondanti in gioiosa caduta, che sembrano dirci allegria è venuta per testarci a ricrescere. Variegata ci dai la natura di molteplici toni cangianti, di verde novella speranza, e affidi a fiori sgargianti l'attesa di frutti gustosi. E vai dissipando volanti, quali minute farfalle, in una nebbia di sogno che corre per ignoti sentieri, a fugar dell'inverno i cupi pensieri, e cercar poi l'amore nell'estivo calore. Tra nuvole rigonfie o stirate da venti impetuosi, e sfrecciar di rondini s'affaccia prezioso Dio Sole che riaccenderci vuole. Se cadono i petali e volano i pollini di cui l'ape si pasce, è pur sempre la vita che muore e tosto rinasce. Cadono le stelle d'agosto. La tradizione vuole che si possa associare un desiderio ad ogni stella che cade. Per secoli le stelle hanno guidato l'uomo alla ricerca dell'ignoto, sia nel vagare in carovane nei deserti, sia nel suo percorrere sulle navi i mari del mondo. È ben comprensibile che si attribuisse agli astri un immenso, quasi divino potere, e per renderli più familiari e favorevoli, l'uomo vi scorgesse i personaggi più importanti della mitologia antica. Modernamente l'uomo ha un altro impatto con le stelle. Le astronavi percorrono e intersecano le loro orbite. Dopo la Luna si meditano nuovi sbarchi. Tutto ciò è condizionato dalle leggi dell'ordine universale. L'uomo invece viola e soverchia le leggi naturali quando fa sì che la luce del sole possa offendere aumentando i buchi dell'ozono e il mondo è intossicato dal catabolismo del sistema consumistico, spesso autodistruttivo. Viene da chiedersi che senso ha cercare l'acqua sui pianeti mentre la si perde sempre più sulla Terra. Cadono gli astri. San Lorenzo. Cadono gli astri, non solo d'agosto, e cadono pure gli umani imperi, quelli fittizi e quelli poco veri. Perciò non può darci alcuna predizione, né protezione il firmamento, né consolare l'esistenziale spavento. È qui sulla terra che bisogna prevenire i malanni che il nostro mondo infligge e con sete e fame tiene in suo potere. Per voluttà il denaro tutto stringe e non s'accorge di quanto lede l'ambiente e tutto quel che possiede. Circonda tutto con oscure siepi perché nessuno sappia quanto egli abbia, ma non s'accorge quanto il suo egoismo lo chiude inesorabilmente in gabbia. Dicevamo prima dell'acqua. L'acqua, appunto, può sommergere per la forza degli uragani, sottrae zone di costa spostando i confini di continenti, può affogare isolotti quando per l'eccesso di calore si liquefano i ghiacciai. L'acqua soggiace ad effetti e significati di vita e di morte. Sta all'uomo regolarne l'uso, il consumo e il risparmio. La forza dell'acqua. Sei gentile. Rinfreschi e ristori d'estate, congelati variopinti e bevande ghiacciate. Già dai tempi del diluvio inesorabile tu fosti, e nell'ora decisiva il riparo nella stiva della sua arca universale, quel vegliardo di Noè, ad ogni cosa e ogni uomo e animale egli diè. Qui benevol vo guardarti, come chiara, fresca e dolce, qual voluto hanno illustrare grandi uomini, il Petrarca e il santo mistico d'Assisi. È pur ver che nasce in acqua ogni fiore d'animale, e il bebè nel materno grembo. Tu sei forza insuperabile, tu nei fiumi scorri e sembri sempre ugual, ma non lo sei, tracci all'uom le vie del mare. Anche quando silenziosa sei e cader piano piano, goccia a goccia, sai nei secoli consumare ogni marmo ed ogni roccia. Il grande vuoto. L'acqua si rapprende, si compatta nel ghiaccio, il panorama è il panorama del polo che dà veramente il senso del vuoto. Il vuoto si insinua nella mente, nei cuori. È il nulla al quale si aggrappa ogni viandante ma sprofonda già che non dà sostegno. Il vuoto è come l'infinito. Quando si getta un sasso in uno stagno, le onde si allargano all'infinito, a perdita d'occhio, poi tutto resta come prima, perché il vuoto non si lascia dinamizzare. Il grande vuoto. Glaciare opprime il fondo del cuore, e della mente la vetta, e dell'alma l'intera fibra, la plumbea massa pur lucente e candida dell'iceberg del vuoto, che attanaglia e rende pur triste e amara l'umana esistenza. Se anche emerge la cima dai flutti, approdo precario dorme residuo di vita, i venti crudeli che infuriano su viandanti mortali finiscono per fiaccare anche questo sostegno nel risucchio del mare, ove cerchi di parole si dilateranno a perdita d'occhio nel nulla. Perciò tutto a tutti parrà ugual come prima. La vita è il viaggio. Viaggio verso l'infinità del mare. Ci se ne accorge quando non siamo presi dalle nostre preoccupazioni. Si deve trovare il coraggio di riconoscere le nostre sconfitte. Solo allora possiamo riprenderci, rialzarci per vedere il sole. La vita è viaggio, non dimora. Il porto è il mare, non la riva. Per forza sto male quando non lavoro. È l'unico ruolo in cui non sono fallito. Dovrei scrivere una lettera, ma a chi? A lui? Conosce già tutto. A una persona che mi consoli. A me? Ma forse non la scriverò. Mi sento il culo per terra. Forse ora non posso altro che risalire. Non so come recuperare ciò che mi manca. È una via di salvezza o una fuga? Una scappatoia, certo. Al fin ho visto il sole, splendente, infuocato. È un ritorno. Nebbie oscuri. Il sole può essere nascosto dalle nuvole o nelle caverne dei sogni. Poi, come Dante si fa accompagnare da Beatrice, anche a me succede di sognare una ninfa che mi guidi e alla fine faccia intravedere l'aurora e il sole che tramonta fa sperare il sereno del tempo e della mente. Nembi oscuri. Nembi oscuri hanno, tra i fulmini, aumentato le ombre dei fantasmi della notte. Nelle tetre caverne han cacciati gli aggrovigliati sogni di una via senza ritorno. D'improvviso, una ninfa lieve e bianca per mano mi prese, tranquillo il sonno mi rese. Or sono aperto alla speranza della luce del mattino, dove nuvole non mancano, ma hanno il colore ben augurante dell'aurora. C'è ancora vita. Dicevamo prima il sole. Come il sol sfavillante ma cieca, filtrando tra i fusti del bosco, in tal modo tu accendi abbagliando il mio spirito e nell'intercalar d'ombrose pause rinnovi dell'essenza la vena, del desio la speranza. Voli. I gabbiani volano con tale leggerezza ed eleganza che non possiamo non invidiarli, ma siamo pesanti e dobbiamo tenere i piedi saldi sulla terra. Paradossalmente ci serve questa stabilità per poter sognare nel nostro intimo. Come bianchi gabbiani credevamo poterci librare nell'aere e qui volare finché umana debilità non gravò l'ale e ci spinse a cercare l'ausilio della solida e nuda terra. E i sogni in ver non cancella, ma i nascosi anfratti rinserra. Idi di marzo. Ricordi di Pavese. Tanto violente sono le emozioni che questo scrittore ci ha trasmesso da divenire dolorose, tristissime al punto che lo hanno travolto. È proprio il testo di Pavese, Lavorare stanca, che mi ha poi suggerito il titolo Stanchezza. Non c'è forse anima al mondo che non abbia avuto i momenti di laceranti urla di passione e di cupa tenebra della sofferenza descritte da Pavese. Non è sconvolgente averli, è gratificante e confortevole averli superati, integrati in serena armonia. Stanchezza. Quando si resta incerti su come muoversi, su cosa fare, ma anche sull'inadeguatezza di fronte a ciò che cade nel cerchio delle nostre competenze. Così ci sentiamo compressi nella nostra libertà. È una situazione frequente nella vecchiaia. Allora torniamo alla natura e al soprannaturale e ritroviamo una parte della trascendenza in noi. Stanchezza vuol dire riposo. Ma che cos'è che mi manca? Negli affanni quotidiani della vita s'aggira scettica, dubbiosa, spaurita, un'anima di lottare ormai stanca. Non so davvero ove possa ritrovare il coraggio che permetta di durare. Tutto quel che mi circonda è così angusto. Dovrei avere un fisico più robusto per rompere dei confini così stretti e riscoprire nel mondo naturale i segni di qualcosa che ancor vale, che il buon Dio non ci lascia mancare, purché umili noi sappiamo comprendere che dentro soli non lo siamo mai, perché c'è sempre in noi il Divin Spirito che aiuta a superare tutti i guai. Di fuori non c'è nulla se non chiasso. La gente concitata cerca spasso. Chiamarlo usa alto gradimento, ma è solo per distrarsi dal vuoto che ognuno porta dentro. Riposo e voglia di domenica. Nell'immaginario collettivo, la domenica è il giorno del cambiamento. Si fugge dalla propria casa, dalla propria città, in cerca di altri luoghi e di altre persone. Poi magari le troviamo le stesse altrove. Si vorrebbe che il nostro io vivesse per sé in piena libertà, come sarebbe in realtà lo stato di riposo. Ma poi finiamo per cadere nel fare per fare. Voglia di domenica. Cos'è mai una simile voglia? È per l'uomo moderno il disgusto di ingozzarsi di beni e passioni che lo inducano a varcare la soglia dell'etereo e muto infinito? Desiderio esso è d'espansione nel vuoto del tempo e dello spazio, ove in vero la mente si liberi ed il cuore rimanga al fin sazio. Ma quest'uomo del 2000, ben lungi dal biblico precetto di Dio, per 6 giorni assiduo progetta come fare a robotizzare al 7° anche il suo io. Così, nel weekend ricreativo, egli cerca un sottil diversivo ed ancora lo strema, ansioso, un congegno assai macchinoso che ha creato e mantiene in moto. Dallo stress prostrato l'uomo giace. La domenica brama la pace, ma è soltanto un'oscura chimera. Il riposo induce a meditare. Cosa siamo per noi? Cosa sono io per gli altri? Cosa sono gli altri per me? Tutto questo traspare da quella delicata relazione interpersonale che strappa il medico e il paziente. Dunque, medico, conosci te stesso? Nutre amor l'altro da sé, come il latte che scende generoso da turgido seno della madre, la quale mai compenso attende, ma il bimbo col sorriso sempre glielo rende. Così chi cura, ognor cerca il bisogno che l'atto di donare gli consente. Per captarlo, erbe e farmaci egli usa, siringhe ed aghi ancorché dolorosi, e doloroso manco poi si scusa, perché così sta scritto nei suoi testi. Di falsa modestia il Samanta sostiene trattarsi di atto che è dovuto, che nasce da professional coscienza, non solo da dettami della scienza. Arriva al fin la triste vetustà, toglie superbia e inutil vanagloria a questo mito sacro e secolare che asconde all'uomo l'amara verità. Il combattente resta or senza armi, all'umano destin arrendersi conviene, gli sono rimaste solo le sue mani per alleviar del prossimo le pene. Ci accorgiamo al fin che non è l'altro che di noi propriamente abbisogna. Ad abbisognare dell'altro siamo noi, ma lo capiamo solo col senno di poi. Un posto privilegiato. Vorremmo tutti avere una zona discreta tutta per noi dove gestire i nostri sentimenti. Ci sarà pur un rifugio sicuro, ove fonder discreta ogni gioia del cuore, riposar la gravosa stanchezza, cancellar d'ogni afflitta tristezza, ritrovare la forza d'amare, di ricevere e ancor più di donare. Piemonte, Bose e oasi di pace. Bose è quel convento dove c'è Enzo Biagi, perché Enzo Bianchi. Che c'è di meglio del ritiro in un convento? Le sensazioni in questo luogo mi hanno riportato ai periodi di vita vissuti in Piemonte, terra dei miei avi. Piemonte, da una terra rinata ad un'oasi di pace. Partendo da un piccolo regno, region solatia e spaziosa, la riunione dell'Italia facesti combattiva, fedel, generosa. Dalle dure fatiche nei prati, vigneti e nei campi, la tua gente laboriosa con tenacia ti ha ora redento. Torna a garruli tanti bambini chiassosi a giocar nei cortili, abbelliscono porte e finestre piante verdi e fiori gentili. Ti ho rivisto, Piemonte, in colori sgargianti, ove rientrano adesso anche gli antichi emigranti. Ora arrivano e sono ben accetti, numerosi nuovi emigrati, nel lavoro impegnati e nell'arte fortemente ovunque mischiati. Proprio qui ho scoperto amore, libertà e bellezza in natura. Nel verde dei prati e dei campi, della vigna, all'ombra, io vissi la passione degli anni acerbi. Or che sono avanzato negli anni, sto cercando dei luoghi silenti a meditar su pensieri e malanni. Non parter che una simil gente al lavoro attaccata, tenace, di cercare remoti rifugi per lo spirito, sia stata capace. Adesso vengono due poesie, Freddo d'agosto e Consumato est. Sono tutte e due scritte in Piemonte e in queste poesie passa un sottile filo di nostalgia. Freddo d'agosto, Lago d'Orta. Più che l'insolito clima è forse il lutto d'un triste finale distacco dalla terra amata dei laboriosi miei avi. Però è pur la malia dolce di luoghi incantati, vissuti con sottile e profonda nostalgia, per l'assenza a goderne della compagna della mia vita. Tanto più che proprio da questi bei siti la nostra avventura è partita. Consumatum est è un inno di ringraziamento ai miei avi vissuti in tempi di difficoltà e carestie e ai parenti che non sono più in vita, che mi hanno aiutato a crescere. Alla fine ne posso fare a meno di scusarmi per essermi liberato della mia parte di eredità, vedendola sia pure ad un parente. Oh avi, non trassi forse dai vostri lombi operosi costanza, sudore, fatica tenace, se or non mi resta che lasciare la terra che voi con unghie e denti conservare voleste. Che dirti, avo Stefan, che vestito cercavi requi per essere più lesto a riprender lena al sorger del dì, e tu, nonno Carlo, attraversare avvezzo i fiumi, tenendoti alla coda delle vacche che a vender portavi per allevare e nutrire la tua folta famiglia. Rifugio mi fu poi questa terra nei drammatici giorni di guerra. A te, zia Agnese, custode fino all'ultimo del nostro focolar, sempre a piedi e pregando. Dei chilometri fatti non so se siano più quelli di strada o quelli del rosario. Anche a te, cugin Carlo, rimembrare io debbo, di merende compagno e di canti solitari nella piana, di nascondigli segreti, financo sotto i tetti delle sorelle Iorio e di fughe memorabili dalle arretate degli odiati nazi e repubblichini. Ad altri ora io questa terra passo, seppur ancor della nostra stessa schiatta. Tristi mi restano le radici del cuore, ormai dovuto trapiantarle altrove. Le vedrò certo in un mondo futuro, che spero non ci sia troppo duro. Stornelli, da nostalgie antiche a quelle più recenti della Sardegna, dove tutto richiama luce e gioia. Fior di verbena, su questa antica candida arena togliesti al mio cuore ogni pena. Oh, dolce fior di mirto, su questi lidi dolcemente assorto, ali leggere desti al mio spirito. Fior di rosmarino, del tuo profumo ogni luogo qui è pieno, l'animo mio rendesti più sereno. Fior di corbezzolo, tu mi ricordi pur quello più piccolo dei miei pensieri e sono già un gruzzolo. Dell'oleandro niveo e rosso fiore, qui sei tripudio e festa ad ogni core che induci a ricercare amore. Fior di melograno, col tuo sapor rimembri ciò che si ama, col tuo colore ciò che ancor si brama. Fior di rosa canina, desiar tu fai ogni mattina una rosa che sia senza spina. In vista del mare, è proprio lo stupendo mare sardo che ci regala delle seduzioni che ci fanno sognare. Non ti inchini più, musa, assorta su lidi assolati, in amica solitaria e protettiva ombra, a scrivere dolci e promettenti parole? Si dispersa in frammenti di stelle cadute nell'acqua del fiume perenne, a galleggiar qual variopinte tremule foglie, sfocianti nel mar di infiniti desideri, vissuti nei sogni di brevissima vita. Una profonda e reale emozione. Un'ora sola vorrei e onda lunga. Qui parliamo di natura e ci cedi meglio delle immagini di pesci e uccelli, gli animali sicuramente più liberi del creato. E dov'è che può spaziare al meglio il nostro sguardo se non sull'ondeggiare di colline? guardar stupito la danza dei delfini, guardar bianchi gabbiani nel cielo a volteggiare, guardare emergere neonati rondinini dal nido pronti a volare in propizio vento, guardar le onde del mare spumeggiare, cercar nel sole il mistero del futuro per restare al fin abbagliato, spento e oscuro. Onda lunga e dolce, vola l'anima mia tremente, qual angel, e librandosi nell'aere, dividi fior va lambendo e umida rena, qual onda lunga e dolce, carezzevole, silenziosa, segue i clivi e sale sinuosa, sfiorandone vibrare ogni altura. La natura è quanto cade sotto i nostri sensi, in particolare vista e udito, che reciprocamente si rinforzano e sono proprio loro a godere del mondo delle creature che lo popolano, lo vivono, lo animano. Poiché i componenti della natura sono gli elementi essenziali come acqua, aria, fuoco, vento, terra, possiamo vivere la natura come metafora dei nostri sentimenti, impulsi, pensieri. Saluto. Un saluto mandar vorrei a chi amo, da questo cielo sereno, abbracciato da nubi, dalle curve barocche, ridenti, gioiose, un'aria sì pura che intatta conserva la freschezza, la dolcezza d'un'estate che or mite dal nostalgico tenue calore. Talora dall'ardor del sole e di stelle cadenti ci propone ricordi frementi che ora scioglie in un blando languore. Natura benigna. Natura, benigna mi sei. Sole, non tramontar sulla mia vita, mi uccideresti. Come il sole è la scintilla che accendi ancora nei miei occhi. Fuoco che sciogli il gelo di ogni mia amarezza, come il sorriso tuo caldo e aperto. Vento che infrangi e dissipi le nebbie e i fiumi della mia ira ardente, come i sospiri di un attimo di passione. Tutto questo tu sei per me, e di più. Perché mi ami, e arena, intendo un'arena vista di notte. Non c'è uomo vero che possa fare a meno di amare e di essere amato, e che non cerchi di capirne il perché. Per chi ha il sole nel sorriso, per chi ha il limpido mare nello sguardo, per la dolce e tenera pazienza dell'ascolto, per il mistero di un'attrazione irrevocabile, ti amo, divin spirito. Ma tu perché mi ami? Vorrei che al di là delle mie spregiudicate intemperanze e della pretestuosa idealità, vedessi un uomo che cerca, amando sempre senza mai misura, del freddo, vuoto e solitudine, l'abisso nero col mar, con la forza disperata della speranza e col tuo aiuto. Arena. Non c'è cosa più dolce dello splendor di luci e di suonar di note nella sublime estasi dell'armonia notturna. È l'eterno mistero della vita, nei recessi profondi del cuore, ove sol per amore tutto si ha e tutto si dà. È il bosco della vita. Questa è stata scritta nella pineta di Cavareno. C'è una moltitudine di pini nella vita, stiamo stretti, non ci resta che salire e per questo dobbiamo scarnificarci per diventare più leggeri e respirare il cielo. Il bosco della vita, la carne e gli affetti. Inver stento a riconoscervi, pini. Accanto mi siete cresciuti, da quando eravate verdi, pimpanti, piccolini. Or si è fatto più cupo del vento il fruscio, cui subentra un sussurro, un brusio, uno stormir di frasche e di foglie che langue si insinua. I sospiri dal cuore ci toglie. Ti vedo invecchiato, o bosco. La terra diventa incapace di reggerti e di continuare a trasmettere di vita la linfa. Rese scarne nel tronco, le piante, soffocate da loro moltitudine, si innalzano e anelano al cielo, che gli umani possono solo raggiungere lasciandosi indietro la carne, diventata ormai non più idonea a produrre i sensi e gli affetti di cui è doloroso il distacco. Ci soccorre al fin l'aria frizzante, che più in alto saliamo respiriamo più sottile e più pura, nel silenzio e nella pace che eterna ci dura. Finestra del mondo. I nostri occhi sono ormai socchiusi e come una finestra socchiusa lasciamo filtrare gli ultimi raggi del sole, ma guardiamo ancora il mondo con grande interesse. Finestre nel mondo. Trasparenti e chiare, filtranti i raggi del sole su cime incantate, in osmosi incessante tra il poco dell'io e il tanto di Dio. È l'occhio che vede, ma è il cor che traduce, e il senso dispone delle vie della luce. Raccogliamo i riflessi dei splendor del creato e i suoni melanconici di un'arpa arcana che nell'intimo vibra e sommessa racconta i sospir di chi ama. È dal cuor che ritorna lo sguardo sul mondo per rubarne la luce. Si dice che tutti i salmi finiscono in gloria. Così ho pensato al canto di un coro parrocchiale, sperando che il canto sacro ci tolga la malinconia e ci sollevi gioiosamente. Il coro. Corista, che in chiesa onori i sacri riti del popolo di Dio con meste preghiere per il lutto dei cari, festoso per le nozze e l'arrivo di un nuovo cristiano. Il tuo canto poi esalta la grandezza del Signore. Par tu assumere anco l'ali per unirti ai cori dei celesti cherubini. Ci sono voci disparate, ma il Maestro in tono e ritmo le mantiene regolate. Dà l'impianto l'organista, delle canne il suono si espande, dà l'aiuto di un'orchestra. Alla fine è melodioso il nostro canto, e sì armonioso giunge agli angeli in cielo e li fa ingelosire. Allor sembra che il buon Dio esaudisca troppo presto le nostre umili richieste, ma son pronti a far feste e a cantar lieti con noi, che nella vigna del Signore siamo solo operai. Lo san pur che a lor le grazie per fortuna mai non mancano, perciò hanno attenzione per la nostra devozione. A questo punto devo ringraziare la dottoressa Trevisa e la gentilezza del personale della biblioteca. Devo ringraziare la professoressa Ripamonti per la strutturazione della raccolta. devo ringraziare Chiara Coletti. I piedi. I piedi. Per avermi concesso la riproduzione dei suoi acquerelli. Mio figlio Stefano ha 7 per lavoro per le fotografie degli acquerelli. Il signor Zindaco per la sua lettura interpretativa. E infine a voi tutti che avete seguito con attenzione e pazienza questa lettura e spero anche con piacere. Grazie.